e quelli che sono morti perché erano anarchici, perché anarchici di cuore, quelli che sono morti perché erano matti, o era meglio che lo fossero perché avevano una camicia colorata e non volevano lavorare 12 ore al giorno, e lavorare la domenica e il sabato e il venerdì e riposarsi gli altri giorni. Perché non gli hanno dato un rigore, perché la terra che gira intorno al sole, perché uomini con uomini e donne con donne peccato, perché traditi dall'amore, quelli che sono morti perché la gente lo andasse a vedere strozzato in piazza, quelli che sono morti perché allergici alla polvere da sparo e non hanno capito niente neanche dopo la guerra di Piero. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock. Quelli che sono morti perché 5 minuti di ritardo al giorno sono una vita di ferie. Quelli che sono morti perché hanno costruito le piramidi. Quelli che sono morti perché i leoni sono più forti, perché nella stiva di un camion non c'è aria, attorno al gommone troppa acqua, e nelle foreste dell'Africa troppo fuoco. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock. A te che mangi uova sode a colazione, succo d'arancia rossa in vestaglia di raso, tra punta di benessere e ascolti la tua radio con le cuffie e la TV accesa, rispondendo al cellulare cerchi fuoco nelle tasche. Dico, sorridi alla tua morte, sopravviverai, rispondendo al cellulare cerchi fuoco nelle tasche. Dico, sorridi alla tua morte, sopravviverai. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock. Avanti pop, alla disco, bandiera rock, bandiera rock.